Radiazione 11 novembre 2013. Ricordiamo subito gli indirizzi per Radiazione: radiazione@autistici.org per la mail. Io lo ricordo, invito sempre chi ci ascolta a mandare sempre qualche consiglio sulle letture, oltre alla mail, alle mail che arrivano sulla controinformazione, qualche opuscolo, qualche manifesto, roba comunque relativa alla controinformazione. Quindi consigli sui libri, per il momento li scegliamo, stiamo scegliendo noi, visto che non arrivano consigli. E questa era per quanto riguarda la mail di Radiazione. Invece per il blog, radiazione.noblogs.org, che è il blog poi dopo è nata la radio, lo ricordo, là sul blog potete trovare tutta la controinformazione aggiornata quotidianamente, potete riascoltarvi le dirette d'azione, anche quelle vecchie, ci sono i podcast, c'è la sezione ascoltare le dirette d'azione, c'è la sezione download dove scaricare libri, opuscoli, manifesti, cd e roba, cioè quanto più ne troviamo da mettere a disposizione di tutti se ne pubblica. Quindi radiazione.noblogs.org per la radio, radiazione.listentumaradio.com o attraverso il banner che trovate sulla sidebar di Radiazione, ci cliccate sopra il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19. Oggi è lunedì e quindi, come tutti i lunedì, lo ripeto, oltre alla controinformazione c'è soprattutto la lettura. Lunedì scorso abbiamo finito il libro Marcello, La Zantraglia. Invece oggi si resta sempre negli ambienti marini, ma l'atmosfera cambia un attimo, si va un po' più indietro negli anni, l'epoca dei pirati, quindi arriviamo subito al punto. Il libro è Veracruz, un libro di Valerio Evangelisti, un autore di cui abbiamo già letto l'anno scorso già tre libri, abbiamo fatto la trilogia del metallo con Metallo Orlande, Black Flag e Antracite. Quindi ora ci ascoltiamo un brano, sono Dieter Tonhausen con il brano Glückspiraten, nemmeno fa la posta, e poi dopo si torna qua. Marcello farà una breve introduzione al libro e poi si parte subito con la lettura. Yeah. 11 novembre 2013, siamo entrati in pieno autunno, almeno qui dalle parti nostre le nuvole non ci lasciano pietà, ma noi di Radioazione non ci hanno mai lasciato pietà, accompagnandoci con una pioggia del lunedì, alquanto sospetta, il Padre Eterno non ci ama. Dopodiché cominciamo, abbiamo appena ascoltato di Totenhosen, Glückspiraten, Pirati di Ventura o Pirati della Fortuna, e noi dal mare della guerra di corsa postmoderna, con cui vi abbiamo accompagnato dalla ripresa delle nostre letture fino alla scorsa puntata, passiamo invece facendo un balzo nel tempo, nei secoli, andando a ritroso, e ci ritroviamo nell'ambiente caraibico del 1683, quel tempo in cui la filibusta, nelle sue contraddizioni, nella sua poesia, nella sua volontà di potenza, sviluppava il proprio agire. Il libro, come è stato anticipato, è quello di Valerio Evangelisti Veracruz. Abbiamo invertito il corso delle edizioni di questa trilogia dei pirati scritti da Valerio Evangelisti, e poi vi diremo perché quando leggeremo il prossimo libro. Ma adesso cominciamo, basta con le parole, basta con le chiacchiere, e andiamo sull'isola di Roatan. Il 17 marzo 1683 Hubert Macquarie scrutava il mare in attesa dei vascelli in arrivo. Solo lui e l'amico Francis Levert sapevano che al largo di Roatan stava per apparire la flotta più imponente che i fratelli della costa avessero mai allestito, ben 17 velieri, inclusi vari brigantini da una trentina di cannoni ciascuno. Appoggiato con il gomito ad una torretta di guardia, la gamba sinistra su un cannone arrugginito, Hubert pregustava lo spettacolo. Per assaporarlo, si metteva nei panni degli spagnoli di qualche città costiera quando al largo apparivano i pirati. Ecco, decine di vele all'orizzonte, le campane di tutte le chiese suonavano l'allarme, le navi sembravano lontane, ma se avevano il vento a favore erano velocissime. Tempo un quarto d'ora e iniziavano a cannoneggiare il forte e la città. Tempo mezz'ora e uomini assatanati, portati a terra dalle scialuppe, sbarcavano, urlando in cerca di una preda qualsiasi. Le vittime tentavano allora di radunare i beni più preziosi e di correre a nascondersi nella foresta. Alcuni riuscivano a fare in tempo, molti altri no. I predoni, che inalberavano simboli di morte, travolgevano la guarnigione e si gettavano sui civili. Era l'inizio di un incubo. Torture, stupri, devastazioni, dove era sorto un abitato progredito costruito sul modello delle migliori città di Spagna, non restavano che macerie fumanti. Era accaduto a Maracaibo, sotto il comando dei Lolonè, a Panama, sotto Henry Morgan, a Campeche, innumerevoli volte. In tanti centri in apparenza ben difesi della Nuova Spagna, di Cuba, del Venezuela e del Caribe. Però nessuno aveva mai osato attaccare Veracruz, ritenuta imprendibile. E proprio a Veracruz era diretta la flotta in avvicinamento. «Secondo me è un'impresa folle», disse Levert, sbucato dalle fitte piantagioni di palmizi, e apparso al fianco di Macquarie. Ingollava sorsate da una bottiglia di rum. Veracruz è notoriamente imprendibile. Mi stupisce che il cavaliere de Grammont abbia potuto concepire un'impresa del genere. Hubert Macquarie si tolse la pipa dalle labbra e le dita strette sul fornello di terracotta emise uno sbuffo di fumo. Ho i tuoi stessi dubbi, Francis, ma de Grammont è una persona equilibrata. Se decide una spedizione è perché sa che la porterà al successo. In questo caso è riuscito a coinvolgere anche Lorenzillo e Van Horn, oltre ad Andres Zon e parecchi capitani meno importanti. I fratelli della costa saranno al massimo della loro potenza. Levert però non era molto convinto. Veracruz non è una città come le altre, è la capitale della Nuova Spagna e ogni merce che si traffica passa di lì a magazzini riforniti, forti, cannoni. La flotta che stiamo aspettando tarda a comparire e forse non è un caso. Prese la pipa che Macquarie gli porgeva, per qualche istante aspirò il fumo acre e aromatico del tabacco olandese e contemplò il mare. L'isola di Roatan era un gioiello naturale, spiagge bianchissime, mare trasparente, vegetazione folta. cale nascoste come quella in cui si trovavano adatte a sbarchi clandestini e un cielo tanto azzurro che accecava. Per me si sono persi, borbottò Leverne. Niente affatto, gridò Macari con l'euforia di un ragazzino. Eccola là, la filibusta in avvicinamento, aguzza gli occhi sulla linea dell'orizzonte, è uno spettacolo! In effetti, all'improvviso apparve a largo una squadra di navi di varia stazza in formazione a cuneo. Il vento a favore gonfiava le loro vele quadrate o latine, il mare si frangeva sotto le polene. Non avevano bandiere. Gli scafi parevano volare sopra i banchi di corallo, manovrando con agilità tra gli scogli. Precedevano la flotta quattro brigantini a tre alberi, detti a palo, che il peso dei molti cannoni non rallentava. A seguito tutto un campionario della navigazione caraibica, golette, sloop, balandras, maone, navi leggere che i pirati apprezzavano per la loro velocità. Oltre a due galeoni dalla stazza enorme, sfondati in vari punti delle fiancate con la velatura facile. Erano trascinati da lance a furia di remi. Ma sono i galeoni a cui il capitano Lorenzillo voleva tendere un agguato, esclamò Levert. Il Nuestra Signora de Consolación e il Nuestra Signora de Regla. È da due settimane che li aspetta. Magari borbottò. Si vede che li ha presi de Gramont. Lorenzillo non ne sarà affatto contento, alzò le spalle. Eppure bisogna che lo avvertiamo, vieni. I due uomini lasciarono rapidi la collina su cui si ergeva la torretta di guardia e scesero il sentiero che conduceva al piano, inoltrandosi tra nopales, irti di spine e palmizi. Questi ultimi erano stati minoritari nella flora locale finché gli spagnoli non avevano deciso di importarne semi e pianticelle della costa pacifica. Speravano che Roatan sarebbe stata loro per sempre, ma si ingannavano. L'isola era troppo ricca e bella per non suscitare concupiscenze. Era stata in fasi alterne spagnolo-inglese, contesa e conquistata a fil di spada. Attualmente, nel 1683, era dominio di re Carlo II d'Inghilterra, ma il suo controllo era precario. Situazione ideale perché la filibusta ne facesse uno dei suoi anfratti prediletti, favorito dalle molte insenature. Fu in una di queste che Macari e Levert sbucarono col fiatone dovuto alla corsa. Tra acque verdi che riflettevano la vegetazione, un brigantino dalle vele ammainate galleggiava pigro. Era il La Francesa, catturato da Lorenzillo e gli spagnoli. Un veliero superbo, malgrado la piccola stazza di recente carenato a terra, come si scopriva dal lucido delle fiancate messe a nuovo e dalla solidità degli alberi. Quello di Trinchetto issava sopra la coffa più alta la Jolie Rouge, per gli inglesi The Jolly Roger, in passato effettivamente rossa ma adesso principalmente nera. Vi erano ricamati in bianco un teschio e due tibie incrociate, sopra una clessidra vuota per metà, quasi a indicare il tempo di vita rimasto agli equipaggi di galeoni spagnoli, prede di selvaggi assetati di sangue. Sulla battigia era arenata una scialuppa. «Metti la barca in mare», disse Roberta a un rematore. «Si va a bordo?» «Sì, secondo ufficiale», rispose l'interpellato. Tra i fratelli della costa, la confraternita di pirati che aveva base nell'isola di Tortuga e altri approdi in tutto il Mar dei Caraibi, le gerarchie erano più o meno le stesse della marina militare o mercantile francese. C'erano dunque un primo ufficiale, nel caso della francesa Philippe Calois, un secondo ufficiale, Hubert Macari, e figura chiave, uno stromo o contramastro che fungeva tramite fra l'equipaggio e i suoi capi. Le somiglianze finivano lì perché gli ufficiali delle navi da guerra commerciali avevano sui sottoposti poteri di vita o di morte, mentre tra i filibustieri, per essere obbediti, dovevano avere il gradimento della ciurma. Lo si guadagnava per coraggio comprovato o per comportamento dignitoso, una regola a cui doveva sottostare lo stesso capitano, spesso eletto dai marinai quando non era proprietario del vascello, ma comunque passibile di destituzione e in qualche caso di pena capitale se si dimostrava inadeguato alla propria funzione. A furia di remi, Macari e Levert furono condotti sotto la fiancata della francesa. Per essere un semplice brigantino con due alberi dalle vele quadrate e il terzo che reggeva la randa, si presentava possente. 10 cannoni per lato, un castello di poppa molto alto, una prua affusolata. Dall'impavesata fu calata una biscaglina dalle stanghe di corda dei pioli di legno. Due pirati si dirpicarono con agilità. Sul ponte furono investiti, dal solito lezzo di catrame, di pece e di salmastro. Vi erano certo abituati, ma dopo giorni passati all'aria pura, il fetore tipico di ogni velero risultava vomitevole. Venne loro incontro, sbucando dalla chiesuola della bussola, Philippe Callois, il primo ufficiale. Vestiva con una certa eleganza, tricorno, camicia a sbuffo, reticella che tratteneva i folti capelli neri, abito ricamato d'argento, e al fianco la classica cazzoletta toledana. Un'arma troppo lunga per essere efficace in un corpo a corpo, ma segno distintivo di chi vantava un rango privilegiato. «Novità da terra?» domandò. «De Grammone è in vista?» «Sì», rispose Macari con un certo imbarazzo. «Però c'è una notizia non buona, ha preso lui i due galeoni che aspettavamo». Callois inarcò le sopracciglia fini. Era un uomo dal viso magro, con un tratto di distinzione accentuato dai sottili baffi castani e da un pizzo tagliato corto, esattamente triangolare. «Cabron, questa non ci voleva, Lorenzidio non se la prenderà bene, aspettatemi qui». Macari appoggiò la schiena su una sartia, le verse dette sul bastinaggio, curvo in avanti. Attorno fervevano le attività, cui ogni marinaio, quale che fosse il veliero, si dedicava all'alba al tramonto, solo un po' rallentate dal fatto che la francese si trovava alla fonda. C'era chi ricuciva vele strappate, chi intrecciava cordami, chi ricamava bandiere, fasulle delle principali potenze europee. Erano tutti uomini giovani, nerboruti, aiutati da qualche schiavo ed alcuni indigeni, arawakos o miskitos. La maggior parte dei filibusteri, però, era impegnata a lavare il ponte, un'attività insensata visto che un solo giorno di navigazione avrebbe reso necessaria un'altra ripulita. L'importante era tenere l'equipaggio impegnato e spremere le squadre nei turni di 4 ore cui erano costrette. Una filosofia che i capitani fuorilegge condividevano con i loro colleghi fedeli all'ordine costituito. Prima che Calloagri apparisse si udì provenire dai recessi del quadrato di poppa una sfilza di imprecazione. «Diavolo maiale, anche questo bisognava vedere, De Grammon che mi soffia la preta, ma porco d'un satanasso!» «Eccolo Lorenzio», bisbigliò Macari alle verte, «stai attento quando è in collera, è capace di qualsiasi cosa!» Il più temuto dei capitani della filibusta sbucò dal quadrato a grandi passi, una mano sull'elsa della spada, l'altra che gesticolava. Gli occhi azzurri, contrastanti con la carnagione scura e a sua volta antitetica ai lunghi capelli biondi, erano imbizzarriti. Laurent Corneolus de Graaf somigliava in quel momento al demonio che stava insultando. «Ah, eccoli qua, i due imbecilli!» esclamò portandosi di fronte al secondo ufficiale alle verte che aveva funzione di timoniere. «Aspetto per 2 settimane l'arrivo di galeoni carichi di mercanzia, vi affido la vigilanza e voi mi fate sapere che sono già stati catturati!» Macari non si scompose, tolse con rispetto il tricorno mostrando la bandana rossa che gli teneva unita alla folta capigliatura castana, piegò il capo sul petto comprimendovi il berretto. «Mi capitan, non è colpa nostra. Non potevamo sapere ciò che accadeva per mare e evidentemente il cavaliere ha intercettato le vostre prede. Cosa potevamo farci?» «Scuse, sempre scuse!» urlò Lorenzio esasperato, ma si vedeva che la sua ira stava ridimensionandosi. «L'ordine era di mandare i pescatori per mare, da usare i quali spie, porco d'un diavolo, non hanno visto nulla!» Ancora Chino Macari parlò con voce quieta e convincente. «No, mio capitano, i pescatori possono spingersi troppo al largo. La cattura dei galeoni spagnoli deve essere avvenuta a molta distanza da cui nessuno la prevedeva». Lorenzio era chiaramente convinto, tuttavia la sua irritazione perdurava e si rivolse brusco a Calloa. «Philippe, si salpa, andiamo incontro alla flotta in arrivo. De Grammont mi sentirà quel miscredente. Chi si crede di essere? Il dannato d'Amerino per rubarmi un carico!» Girò uno sguardo di fuoco su Macari e Levert. «Quanto a voi due, forse pensate di essere in viaggio di piacere. Muovete le chiappe, fate sciogliere le vele. La vostra quota di bottino l'avrete solo se il cavaliere ci restituirà il mal tolto». Appena Lorenzio si fu allontanato, Macari bisbigliò alle volte. «Ci è andata bene, quell'uomo è imprevedibile!» Molto inferiore al compare per statura alle verze, alzò sui tacchi degli stivali per parlargli all'orecchio. «Anche noi siamo imprevedibili!» Calloa nervoso batté le mani. «Avete sentito l'ordine del capitano? No, si salpa! Hubert, alle vele! Francis, alla barra del timone! Entro mezz'ora voglio la francese in mare! Via, via da questa baia di merda!» raffinati, ma han paura che li tengano copiati, allora marchi registrati, prodotti controllati, non possono vedere le bancarelle dei mercati. Pronti all'abordaggio, per saccheggiare tutto, mirati all'arrembaggio, forza e coraggio. Dopo la prima lettura del primo paragrafo di Veracruz di Valerio Evangelisti, abbiamo mandato nemmeno a fare la posta un brano sui pirati Pancreas, da titolo per l'appunto Pirati. Ora si passa alla controinformazione. Controinformazione, si va in Cile. Dove c'è una rivendicazione di un attacco ad una banca. Leggiamo direttamente il testo di rivendicazione. In una notte nera come la polvere rivendichiamo i caduti. Il giorno che abbiamo scelto di attaccare non è stato casuale. La nostra azione è parte della vendetta eterna, iniziata circa 25 anni fa, dopo che i bastardi militari della dittatura spogliarono della loro esistenza Araceli, Romo e Pablo Vergara il 5 novembre 1988, sparandosi i loro corpi a piedi della montagna situata all'attuale città carcere di Temuco, che è una regione, lo ricordiamo che Temuco è una regione cilena. Questo non è un semplice invito a ricordare, è anche un messaggio volto a quelli che con ogni complicità, con ogni negazione dimostrano che non solo stanno a guardare resistendo, ma che passano all'offensiva. La scelta di abbandonare la tribuna d'attesa e contribuire alla tensione sociale, la distruzione e la distruzione dell'ordine borghese. Quella notte, come al solito, i mezzi di comunicazione e di intossicazione di massa non hanno tardato a vomitare, parlando di proiettili più altre cose di cui non si è riuscita a tradurre dei termini un po' più cileni. Ma niente di tutto questo è accaduto, è stato abbastanza semplice, si preparano le bombe e si affila il pugnale, e mentre quelli del 18° distretto si riempivano la pancia disgustosa al self-service più vicino, noi vuoti di vita riempimmo di deflagrante odio il bancomat la sera di martedì 5 novembre della filiale della Banca di Stato situato nell'angolo di Larrain con Paola Yarakema, Borgo della Regina, programmando lo scoppio verso le 11:10 di sera. Anche se il danno non è stato come previsto, il colpo ha dimostrato della vulnerabilità esistente, scappando per pochi secondi dal sistema di controllo onnipresente di dominazione. Ieri era una filiale, ma ricordiamo che l'obiettivo va raffinato con la pratica, che la città è grande e incerta e che la notte è nera come la polvere da sparo. Con questa azione consapevolmente salutiamo a coloro che amano la distruzione delle istituzioni che sostengono miseria e l'avvilimento dell'oblio, a Luisa Toledo Manuel Vergara, che i sogni di Raffaele, Eduardo, Pablo e Araceli trascendono nella generazione e vivono nelle prassi anarchiche. Ricordiamo con piombo e polvere da sparo ognuno dei nostri fratelli e sorelle, nessuno è dimenticato. Ricordiamo Antonio Letti Ariel, ucciso dopo essere stato liberato dal carcere, a 23 anni dalla sua caduta è sempre presente. Ricordiamo anche Alex Lemoon, che il 7 novembre è stato ferito a colpi di pistola e lasciato agonizzante fino al 12 novembre. Maledetti gli accapiti, vi salutiamo con odio e vi ricordiamo che la vendetta sarà eterna. Ricordiamo anche i maledetti funzionari della magistratura, le stazioni di gendarmeria e polizia che sono sentenziate, e che la vita è azione e di conseguenza ci armiamo per la nostra esistenza. Ci sono le pallottole con i loro nomi. Con ardente solidarietà, l'amore e la forza per il fratello Hans Niemer, tutto continua. A Freddy, Marcelo, Juan, José Miguel Sanchez, Alfredo Cospito e Nicola Gai, loro scrivono di giorno greca, ma sono italianissimi, senza paura e la testa che hanno tenuto alta, con gioia e senza rimorsi, attaccando il disgustoso imprenditore nucleare Adi Norfi, responsabile della devastazione del pianeta. Inviamo saluti a Celestino Cordova, che affronta un processo difficile per l'omicidio del disgustoso latifondista Mackay Luschinger. E poi c'è una frase in Mapuche, in lingua Mapuche. Ricordiamo che Celestino Cordova è uno dei Mapuche che è stato arrestato quasi all'inizio dell'anno per dopo l'incendio alla casa del latifondista, quindi loro mandano un saluto anche a Celestino. Per una calda estate siamo ancora qui. Cellula dinamitarda, Alex Lemoon Veciafe. E questa era la notizia che arrivava dal Cile, la prima notizia di controinformazione. Ora passiamo a un brano, sono Cartel de Santa da Surra Norte, e poi si torna qui con la lettura di Veracruz e Valeria Evangelisti. Real Academia de la Rima. Well. Y el dúo presente. Ajá, ajá. Laura Merce. Callando hocicos habladores. Tumbando dientes. De donde vengo es Guadalupe. Un flaco con el pote que se tupe a cualquier sea. Y si no, aún empieza la odisea. Pues vean que los atolondrados ya nos angolotean y se les sube la marea. Ya me voy derecho y no me quito pana. De sur a norte hasta que de la madruga. Aplico feeling now. Pastor style. Echo un grito hasta el palenque y en el metro he de pasar. Cotorreo comunidad. Voy pa' la expo con sombrero. Toro mecánico da vueltas y yo ando bien pedo. Mi jirafa me hace bien. Falta de fe siempre estar. Represent Guadalupe. Escupo hasta desparramar. De sur a norte. Poniente a oriente. MCs muy grandes. Que nunca mienten. De sur a norte. Poniente a oriente. Real la academia. Tumbando dientes. Poniente. Yo vengo de un infierno llamado Santa Catarina, donde mis perros no le temen ni a la policía. En cada esquina de la fama hasta sombrillas. No te olvides de la aurora que creció la pesadilla, que brilló milla, nunca olvida su pandilla. Como extraño a Santa Marta, como extraño a mi familia. Quieres riña que abusamos de la fuerza. En lo más tengo a mis guardianes cuidando de mi princesa. Perderás la cabeza si cruzas por San Gilberto. Ay, mis perros son violentos, silenciosos como el viento. El enfona, los andadores son como laberintos. Y por más que lo intentes, nunca nadie escuchará tus gritos. No soy un mito, soy leyenda. Solo pregunta en la López a mis perras para que lo entiendas. Nicolás, aunque sean 1.20, nunca me echo para atrás. El humo de la termoeléctrica cubre toda la... de golf. Te conecté uno que otro swing y en el suelo te dejó. En mi municipio no nos andamos con juegos. Fabricamos el acero en el patio trasero. Esto va con dedicación a todos mis guerrilleros. Desde la Santo Domingo hasta la Blas Chubacero. Una vez más, los titanes se han reunido. Viven la pasión del hip hop como la cruz de Jesucristo. Controversie. Ma di nuovi, facendo fuggire i banchi di pesce multicolori che si scorgevano sotto l'acqua trasparente. Era spinta da un vento favorevole di nord-ovest, che i controvellacci spiegati, le dicontre, i coltellacci, raccoglievano e trasformavano in andatura, come avvertissero la furia di Lorenzio. Questi se ne stava in cima al cassero, a braccia conserte, e solo di tanto in tanto abbaiava qualche ordine a Calloa che lo trasmetteva al timoniere. Al suo fianco aveva Charles Huinet, vecchio compare di scorreria ed amico personale, un uomo dal viso tondo eternamente fissato in un'espressione ilare, con un addome prominente che debordava dalla cintura azzurra stretta attorno alla vita. Un tipo che spandeva allegria. D'altra parte si sapeva che Lorenzio non tollerava i musi tristi. «Ecco la flotta!» disse Calloa prima ancora che l'avvertimento giungesse dalla coffa. «Stanno sbarcando!» Le navi dei pirati erano ancorate in una piccola cala, protetta dal vento della vegetazione e da una cinta di colline. Molte scialuppe si staccavano dai velieri per raggiungere la spiaggia. Erano visibili due galeoni catturati, superiori per stazza a ogni altra imbarcazione. Uno aveva avuto l'albero di mezzana troncato di netto. Il compagno, molto danneggiato, emanava fumo nero, come se un incendio fosse ancora acceso nelle sue viscere. «Ladri maledetti!» gridò Lorenzio. «Giù la barcaccia!» «Voglio vedere proprio come De Grammont e Van Horn potranno giustificarsi. Le navi che hanno preso erano mie!» «Beh, forse non lo sapevano, mio capitano», obiettò Calloa con la calma consueta. «State forse dalla loro parte», replicò Lorenzio iracondo. «Fate il vostro mestiere e ordinate il mio sbarco, demonio malandrino. Voglio vedere se non avremo la nostra quota di cruzzo. Quei due galeoni sono gonfi come tacchini pronti per il patè». Mentre sorvegliava gli uomini seminudi che spingevano, i muscoli tese, gli aspidi e l'argano per mollare l'ancora, Macari si divertiva. Conosceva De Grammont dai tempi della guerra delle Fiandre. Lui era un soldato, il cavaliere un ufficiale. Gli bastava corrugare le sopracciglia per ridurre al silenzio lo stesso generale. Adesso De Grammont era il nome più illustre della filibusta, primus inter pares tra Van Horn e De Graaf, gli altri avventurieri più famosi. Lorenzio poteva sbraitare quanto voleva sulla sua nave. Una volta a terra, in presenza del capo, avrebbe scodinzolato come un cagnolino. Non fu proprio così. Sulla spiaggia, sotto la tettoia di paglia, era stata allestita una mensa riservata ai capitani dei vascelli, piccoli o grandi, e ai loro aiutanti. Schiavi negri servivano frutta, guancinango abbrustolito, prosciutto di cinghiale e vini spagnoli o portoghesi. A parte De Grammont e Van Horn, sedevano al tavolo comandanti di piccoli velieri come Adres Zon, Junquier, Lasage, e tra gli ufficiali e sottufficiali Calloa, Macari, Pierre Baud, François Lebon, nostro uomo sulla francese, accolto a mensa per la sua anzianità di servizio. C'era anche un avventuriero inglese, George Spoor, faceva base a Port Royal in Giamaica, ma all'occasione si univa ai fratelli della costa. Il cavaliere Michel de Grammont, al vedere Lorenzio, si alzò in piedi con fare compito. Era di statura modesta e, come di costume, portava il colletto largo, panciotto, pantaloni grigi e un mantello tutto nero. Al fianco gli pendeva una spada dall'elsa elaborata. Il viso aveva tratti piacevoli, maduri, e un reticolo di rughe ingannava sulla sua età. Gli occhi erano grandi e tristi, colpa forse della gotta che lo tormentava, dovuta, secondo il suo medico, il dottor Exu Emelin, assente dal banchetto, ai troppi eccessi giovanili. la passione del cavaliere per l'alcol e soprattutto per le donne era notoria. «Benvenuto, capitano De Graaf», disse De Grammont togliendo con un gesto elegante il tricorno ornato di piume variopinte. «Sedetevi con noi, che siete il benvenuto». Contrariamente alle previsioni di Macari, Lorenzicio non fu affatto servile. «Mangiare con voi, porco diavolo, mi andrebbe tutto di traverso. Signore, avete intercettato due galeoni che mi spettavano di diritto. Alla tortuga si sapeva del mio agguato. Avevo anche una lettera di marca del governatore che mi incoraggiava all'azione. Cavaliere, lasciate che ve lo dica, siete un ladro!» De Grammont si limitò a corrugare la fronte e a inarcare un sopracciglio mentre rimetteva in testa il cappello piumato e si risiedeva. «E voi un impertinente», mormorò a voce bassa. Intervenne Vanor, molto stupido. «Lorenzio, lanci accuse infondate. Il cavaliere ha semplicemente incontrato due galeoni in mare e li ha presi. Ecco tutto. Cosa doveva fare? Lasciarli andare? Perché non rifletti mai prima di aprire la bocca?» Nicolas Van Oort, ribattezzato dagli spagnoli Van Ferton, era un uomo mingherlino dal viso abbronzato e dai tratti insignificanti. Olandese, aveva svolto un onesto commercio di schiavi finché le autorità spagnole di Santo Domingo, che governavano la parte orientale dell'isola un tempo detta Hispaniola, non gli avevano confiscato con un pretesto un carico di negri. Il tranquillo commerciante allora si era trasformato in una furia. Ottenuta dal governatore francese della zona occidentale, Jacques Nepveu de Poincy, una lettera di marca, si era messo a combattere la Spagna senza pietà, depredandone i galeoni e trucidandone gli equipaggi. Prassi insolita fra i pirati dei Caraibi, che normalmente risparmiavano la vita ai soldati e ai marinai che si arrendevano, salvo torturarne e ucciderne qualcuno più per gioco che per odio. La sua ostilità nei confronti di Lorenzio era di vecchia data. Proprio le rapine della francesa di De Graaf, olandese a sua volta, avevano indotto gli spagnoli a impadronirsi degli schiavi e di altre merci di Van Ferton per pareggiare il conto. La pressione era totalmente ricambiata. «Ma di che cosa ti stai mischiando tu?» abbaiò Lorenzio. «Sei un avventuriero di secondo ordine, con la tua faccia da impiegato nella compagnia francese delle Indie. Quante navi hai catturato? 10, 15? Moltiplica per 3, saprai quante ne ho prese io. Sei il solito sbruffone. Hai appena mancato di rispetto al cavaliere. A Veracruz non ti voglio. Non ci andrà nemmeno tu, perché tra un attimo sarai morto.» Lorenzio aveva stretto l'impugnatura della sciabola. Van Oort si alzò e fece lo stesso. Attorno i marinai sbarcati non presero posizione per l'uno per l'altro dei due capitani, anche se appartenevano ai loro velieri. Incrociarono invece le braccia come se stessero per assistere ad un incontro sportivo. Qualcuno sedette fra l'erba e accese la pipa, e così fece anche Macari, che appoggiò la schiena al tronco di una palma e frugò le tasche in cerca di tabacco. Di Grammont alzò le mani. «Calma, calma, signori, non è questo il momento di combatterci.» E si rivolse a Lorenzio. «Se vi ho offeso, vi chiedo scusa, capitano. Non intendevo derubarvi. Ho assalito i due galeoni senza sapere dei vostri progetti. Vi lascio volentieri la mia parte di bottiglio. Di bottino, purtroppo, è scarso. 3 schiavi in tutto, alquanto malandati, qualche migliaio di pezzi da 8, molto dipinti. Molti dipinti e una quantità di vasi. In prevalenza dei pitali.» Lorenzio perse ogni aria aggressiva. «Pitali?» chiese con stupore. «Sì, in ceramica e con ornamenti. Pare che nella Nuova Spagna non ne abbiano a sufficienza, però sono tutti di buona fattura e sono vostri. Mi prendete in giro?» «Non oserei mai, capitano.» Trattenuto a stento fino a quel momento, l'ilarità degli astanti esplose fragorosa. «Si stavano per sbudellare per dei vasi da notte», commentò il vocione roco di François Le Bon, il nostro uomo della francesa. L'uscita corse di bocca in bocca, moltiplicando le risate. Un po' umiliato, Lorenzio abbandonò del tutto la sciabola, imitato da Van Oort, e finì per ridere anche lui. Sedette al tavolo e afferrò una caraffa di vino. «Nessuno mi porta un bicchiere, diavolo, d'un demonio!» esclamò. Fu subito accontentato. Le varie brocche di vino del Perù, l'unica colonia autorizzata a produrre la bevanda che era il vanto della Spagna, furono posate sulla tovaglia. Dopo un paio di sorsate, De Grammont tornò a levarsi in piedi. Si fece un immediato silenzio. Parlò in spagnolo, la lingua più condivisa nei Caraibi fra le tante. La sua loquela era fluida, a parte le R pronunciate alla maniera francese. Amici, la Grassa Veracruz è la che ci aspetta, è troppo ben difesa, dirà qualcuno, ha fortificazioni imponenti, bipperanno altri. Ebbene, io vi dico, nessuna forza al mondo riuscirà a trattenere l'impeto dei fratelli della costa. Con l'Olonné abbiamo ridotto in cenere Maracaibo, che si diceva imprendibile. Con quell'estofante di Henry Morgan ci siamo impadroniti di Portobello e di Panama prima che il traditore accettasse cariche pubbliche e iniziasse a darci la caccia. Veracruz è stata da sempre il sogno di ogni avventuriero, sogno per noi, incubo per gli spagnoli. È ora che la Vergine di Spagna sia violentata. È il suo turno. I presenti applaudirono con entusiasmo, incluso Lorenzillo. Magari fu contento che De Grammont avesse ripreso la propria autorità. Il passato trascorso nell'esercito lo rendeva critico verso l'indisciplina che serpeggiava tra i pirati. Per carattere avrebbe voluto che regnasse un ordine perfetto sia a bordo sia a terra, e giudicava Lorenzillo bizzoso e imprevedibile. Appena avesse potuto, avrebbe fatto in modo di transitare su Le Hardy. I fratelli della costa avevano quel privilegio, anche se cambiare nave costava una parte del bottino cui si aveva diritto per pagare le vettovaglie. De Grammont aspettò che si spegnessero le manifestazioni di euforia. Serio di suo, parlò con gravità. Vi devo avvertire, amici miei, che questa volta non abbiamo né una lettera di marca né una patente di corsa. Il governatore della Tortuga, il signor Jacques Nepveu de Poincy, è nettamente contrario alla nostra spedizione. Gli ho parlato più volte senza riuscire a convincerlo. Pare che Francia e Spagna abbiano sottoscritto una tregua qualche anno fa. E secondo de Poincy, attaccando Veracruz la metteremo in pericolo. Van Horn alzò le spalle. Basta incrementare la percentuale di... Se Veracruz capitola, l'intero dominio di Madrid su questi mari vacillerà. Fece una pausa. Pensateci bene, amici, il rischio è molto alto, sia sul piano militare sia su quello politico. Dovremmo agire senza copertura, ne vale la pena? Lorenzillo scattò in piedi, sguanò la sciabola e alzò verso il cielo facendone roteare la punta. Certo che la vale! Che viva l'oro de Veracruz! Viva il cavaliere de Grammont, nostro ammiraglio! Che viva la filibusta! Tutti i commensali lo imitarono. Che viva la filibusta! Gridarono all'unisono. Esclamazione potente raggiunse la flotta all'ormeggio e fu ripresa da migliaia di voci. Vi si sovrappose il grido altrettanto fervido: A Veracruz! A Veracruz! We'll be right back. E allora, questi erano Six Involt con il brano Swarm. Ora si continua con la controinformazione. Si legge una seconda rivendicazione, questa volta arriva dal Canada, una rivendicazione contro Chevron. Allora, leggiamo il testo direttamente. Mattina presto, mercoledì 6 novembre, alla Royal Bank of Canada sono stati distrutti due bancomat, fracassato quattro finestre. Questo è stato un bersaglio facile, come lo era per East Hastings a Burnaby. La RBC è stata attaccata perché contribuisce a finanziare il progetto più distruttivo sulla terra, l'Alberta Tar Sands. La mattina seguente presto, una Chevron sulla prima strada a Nanaimo ha avuto 9 delle sue 12 bombe fracassate, mettendole così fuori uso. Non c'è alcun dubbio che alla Chevron ha portato decine di migliaia di dollari di danni a causa anche della perdita dei ricavi. È stato fatto facilmente con un martello e ci sono voluti da 1 a 3 colpi per ognuna delle pompe. La Chevron è stata attaccata perché è la maggiore azionista della Pacific Trail Pipeline PTF, è un gasdotto già approvato ma dagli Unist Hot N, che è una tribù nativa indipendente originaria del Canada, hanno costruito delle barricate proprio sul percorso di questo gasdotto. Come anarchici possiamo solo esprimere la solidarietà per Jotun Ulst e faremo tutto il possibile per aiutarli nella loro lotta contro tutte le aziende che vogliono distruggere la loro terra e il governo coloniale che desidera supportare le aziende stesse. Per altri attivisti e gruppi ambientalisti questo movimento contro il gasdotto sarà anticapitalista o niente, o sarà un mix di tattiche violente e quelle pacifiche o sarà inefficace. Esso potrà essere contro questo governo coloniale o sarà un insuccesso. Capiamo la miseria e la disperazione di questa società e il capitalismo può essere molto vuoto e deprimente, ma non c'è niente di più liberatorio mentre questa società esiste, oltre a distruggere, bruciare, saccheggiare e far esplodere qualcosa che sta distruggendo la tua vita quotidiana. Speriamo che queste azioni ispirano a correre qualche rischio. Trova il tuo luogo d'azione e sfidalo. Siamo consapevoli che può creare timore commettere atti illegali, quindi è meglio iniziare con piccole azioni e acquistare fiducia e esperienza. Esplora la tua città e inizia a fare scritte sui muri, così via via. Il modo migliore per rompere una finestra si trova nel punto dove il vetro è più flessibile. Per i bancomat bastano 1 o 2 colpi con un oggetto pesante, fatto perché essi di solito hanno telecamere ad alta definizione, quindi copritevi tutto il viso. Occhiali o occhiali da neve funzionano alla grande. Vestirsi di nero senza che siano visibili le marche. Se si utilizzano altri indumenti, buttateli subito dopo. Scarpe nere saranno ottime. Si può anche indossare scarpe di diversi colori e indossare i calzini su esse e buttare i calzini dopo aver causato un'azione. Vaffanculo Pacific Trail Pipeline, vaffanculo a progetto Northern Gateway, distruggi ciò che ti distrugge, nessun gasdotto sulla terra rubata ai nativi, fai, e questa è una sigla nuova, fronte anarchico informale, viva l'anarchia, solidarietà dalla costa del territorio occupato Salish ai compagni di tutto il mondo. E questa non c'ha nessuna firma, questa rivendicazione, cioè c'ha una firma, fai, fronte anarchico informale, che è la prima volta che appare, che la leggiamo, quindi boh, speriamo che vada avanti come informale. Allora, questa era per quanto riguarda questa azione che arriva dal Canada. Ora ci ascoltiamo un brano di Kenny Arcana, Rebellious Bull, e poi dopo si torna qui con i pirati di Valerio Evangelisti e Vera Cruz. Déclarer la guerre, peuple du monde et enfant de la terre, avant le point de non-retour. façon tout le monde. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, ça peut l'injustice, et la tempête est pour bientôt. Peuple aliéné, politique qui nous mène en bateau. Terrorisme d'état bien concis. Peuple exploité, voué à consommer ce qu'il construit. Une prison à ciel ouvert, quand le crime est la norme. Quand les frontières deviennent les barricades de la mort. Méfie-toi des miradors, des gardiens du désastre. Méfie-toi, car les arrestations deviennent des rares. Ils condamnent l'exclu en propageant l'exclusion. Exploitent les plus pauvres avant la case d'expulsion. Font la chasse à l'enfant, des CRS dans les écoles. Wesh, les voiles les dérangent, mais pas les flics dans les écoles. Si on était ensemble, ils ne pourraient plus semer le chaos. Nous on croit pas en leur justice, nous on croit en celle de là-haut. Mon frère, ne perds pas la foi. Tant qu'ils n'y croient plus, on a besoin de toi. Ma soeur, on a besoin de toi. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfant de la terre. Réveillez-vous, avant le point de non-retour. On aura besoin de tout le monde. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, hey, justice. Et la tempête a commencé avant même le combat. Trop de frères ont renoncé. Dis-moi, qu'est-ce qu'on attend pour construire sans eux? Que le soleil disparaisse ou que leurs armées soient des clones. Air du nucléaire, saccageant la création. Processus établi de déshumanisation. Esprit rempli de subliminal bombardement. Les plus gros médias appartiennent aux usines d'armement. Alors comprendre dans quel monde nous vivons. Le savoir est une arme à l'heure où ils brevettent le vivant. La science et la recherche au service de la peuple. Car un virus c'est mieux qu'une guerre pour exterminer un peuple. N'ayons pas peur, ayons confiance en nous-mêmes. Même la vie est avec nous, oui la vie est avec nous. Mon frère, ma soeur, on est ensemble. Si oui on meurt ensemble, allez on a plus le temps. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfant de la terre. Réveillez-vous, avant le point de non-retour. On aura besoin de tout le monde. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous. Et le système n'est rien sans nous. À nous de reprendre l'espace public pour récupérer nos rues, de reprendre en main nos quartiers. On n'est pas le système en voulant nous détruire. On n'est le système en construisant sans lui. Alors construisons, reprenons nos vies en main. Car les leurs sont pleines de sang. Échangeons, on a tous quelque chose à apporter à l'autre. Et donnons plus nos compétences qu'à Babylone. Donnons-les à la résistance qui est en route. On fait tous partie de la solution. N'oublions pas qu'on est le monde. Que s'ils ont le chiffre, on est plus fort, on a le monde. Et un peuple uni ne sera jamais vaincu. Réveillez-vous, svegliatevi durante una missione segreta. Il 19 marzo del 1683, due giorni dopo il discorso del cavaliere de Grammont ai capi della filibusta, si tenne l'assemblea di tutti gli uomini coinvolti nella spedizione diretta a Veracruz. Era tradizione dei fratelli della costa esprimere in forma corale, oppure di rado negare, il consenso a un'operazione particolarmente impegnativa e pericolosa. La donata, aperta ad ogni pirata, quale che fosse il suo grado, terminava di solito con la firma dei contratti di ingaggio e con la destinazione alle varie navi. La folla che si radunò in una spianata prossima alla spiaggia, nei paraggi del Rio Platano, detto anche Rio Mosquito, dal nome non delle zanzare, bensì degli indigeni Miskitos che abitavano quel tratto del litorale honduregno, non avrebbe potuto essere più pittoresca. La larga maggioranza era composta da avventurieri, come i pirati chiamavano se stessi, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, fisionomie decise, tendenza alla spacconaggine e all'ilarità, insolenza, connaturata. Erano in prevalenza disertori da navi regolare, tante volte arruolati a forza o fuggiti dalle terre d'origine e approdati nel nuovo mondo a causa delle persecuzioni religiose che si erano abbattute sulle loro famiglie. Ugonotti, luterani, calvinisti, almeno in teoria, In realtà nessuno credeva in qualcosa che oltrepassasse il livello della soddisfazione dei piaceri immediati. Alla tortuga la fede ufficiale era il cattolicesimo, però la norma era abbastanza duttile da ammettere varianti, a patto che le cappelle dell'isola e la cattedrale di Caiona fossero regolarmente rifornite di ori sottratte alla chiesa spagnola. Una minoranza comunque consistente era invece composta da uomini dai capelli grigi oppure bianchi. Erano i veterani, rimasti in vita oltre il limite di 3-4 anni concesso a un pirata quando si metteva per mare. Alcuni avevano combattuto con l'Olonné o con Morgan o con Rock Brasileiro. L'avvento di una nuova generazione di capi leggendari, De Gramont, De Graff, Van Horn, Anders Zon, li aveva rintemprati e ridestato la loro cattiveria. Non si credevano certo immortali, tuttavia confidavano di vivere qualche anno in più, assaggiando le delizie capaci di soddisfare la loro smodata ingordigia. Infine erano presenti uomini di difficile classificazione, dalla lingua incerta e incomprensibile. Indiani arawakos, seminudi, abili come arcieri al punto che si perdonava loro la pulsione al cannibalismo, bucanieri, bucanias, e cioè cacciatori provetti imbarcati per la loro mira leggendaria con il fucile, parlavano un dialetto in cui si mescolavano francese corrotto e inglese elementare in un miscuglio che nessuno capiva. Poi venivano gli ex schiavi negri liberati e abilitati a combattere, un'avanguardia preziosa in certi momenti. Credevano che De Gramont avrebbe garantito loro l'invulnerabilità e si gettavano all'abbordaggio incuranti delle pallottole. Se qualcuno cadeva, i compagni lo imputavano ad una fede insufficiente. De Gramont, fiancheggiato da Lorenzillo e da Van Horn, da altri capitani e da tutti gli ufficiali, girò lo sguardo perennemente fosco su quella marmaglia e disse: «Sapete già che il nostro non è un obiettivo qualsiasi. È anzi una preda impossibile, è Veracruz. Gli spagnoli vi mantengono 3.000 uomini di guarnigione a protezione dei loro ricchissimi commerci e in breve possono far affluire almeno 15.000 soldati. La fortezza di San Juan de Ulua è difesa da 60 cannoni. Per impadronirsi della città occorre essere rapidi e sorprendere i difensori prima che gli abitanti nascondano i loro beni altrove. Servono coraggio, disciplina e segretezza. Ve ne sentite capaci?» «Sì!» gridarono all'unisono i presenti. «Tutto dipenderà dal vostro ardimento», proseguì De Gramont. «Celeri e letali, non dovremmo farci intimidire dalla solidità delle fortezze né dalla consistenza dei battaglioni. Gli spagnoli ci temono e hanno ragione. Hanno edificato sui Caraibi un monopolio. Noi siamo gli alfieri del libero mercato, senza dazi e senza vincoli al commercio. Dico bene?» «Sì!» ripeté la folla. «E allora andate alle vostre navi, fratelli della filibusta. Tempo 2 settimane e si parte. Spargeremo il terrore, la nostra arma più sicura. Faremo tremare la Spagna una volta di più. Lucidate i cannoni, affilate le lame, riparate gli scafi. Prenderemo Veracruz, che nessuno ha mai conquistato prima. Ricambieremo la crudeltà degli spagnoli con altrettanta crudeltà e, oltre che eroici, saremo ricchi, smisuratamente ricchi.» Questa volta dalla moltitudine si levò un vero boato. I pirati danzavano, si abbracciavano, scaricavano le pistole in aria. Al momento stabilito, indigeni honduregni cominciarono a distribuire fiaschi di rum, caraffe di vino, fette di carne condita con salse piccanti. Una coreografia studiata. Chi non era troppo ubriaco raggiunse i tavoli d'arruolamento e mise la croce sotto il contratto senza nemmeno conoscerne le clausole. Tutti sudavano, ma non per l'imbarazzo, era il sole che picchiava. De Gramont, Van Horn, Lorenzillo, era notorio, tenevano fede ai patti. Le canaglie e i mezzi idioti non venivano respinti, bensì dirottati ai vascelli minori. Macari festava in un costante piglio imperativo. In assenza di regole, di secondo ufficiale della Franzesa si sentiva a disagio, era sì capace di assumere decisioni individuali all'occorrenza, ma aveva l'impressione che fossero arbitrarie. Se un ordine non le aveva precedute o un assenso non le aveva confermate. Si mise in fila per firmare il proprio ingaggio, ho detto anche «Chasse parti!» su un quaderno in cui erano descritti i compensi e i risarcimenti nel caso di mutilazioni gravi. Naturalmente gli avventurieri che sapevano leggere erano uno su 10 o su 20 e più firmavano con una semplice croce. Tuttavia, le norme del chasse parti correvano di bocca in bocca ed erano note ad ogni marinaio. Nessun comandante avrebbe cercato di ingannare i suoi uomini. I pochi che vi avevano provato in passato tornavano con le loro ossa. Scogli e isolette dei Caraibi. Magari si sentì strattonare. «Ma cosa fa qua il mio secondo ufficiale? Non perdete tempo, Hubert! Siete già arruolato di diritto, boia satana, seguitemi piuttosto. È in corso una piccola riunione a cui siete invitati». La voce ilare apparteneva a Lorenzigio, che appariva di ottimo umore. Gli scoppi collerici di 2 giorni prima non avevano lasciato tracce. «E la firma?» ho detto magari. «Ma sentilo il leguleio. Firmerete quando ne avrete voglia, non preoccupatevi per il compenso. Dopo Veracruz o saremo tutti morti o saremo tutti ricchi». Alla base di una collinetta che si immergeva a picco nel mare cristallino tra alti cespugli di agave azzurra, alcuni marinai e un paio di schiavi stavano salando carne di porco che poi pigiavano entro barilotti. Poco più oltre, in una radura coperta da una rigogliosa tettoia naturale di foglie di palma, sedevano 4 uomini. Erano Francis Levert, Petru Vinciguer, un pirata corso al servizio di De Grammont, Big Willie, colosso irlandese imbarcato con George Spew, e Le Skelette, un avventuriero scheletrico, da cui il nome Minion, che serviva su una o sull'altra delle navi della filibusta. Un quinto personaggio stava in piedi fumando la pipa. Si trattava di Pierre Bott, detto anche Brea, ora primo ufficiale sui brigantini, ora comandante su piccoli vascelli. Svizzero e calvinista, non conosceva patria, si distingueva dai compari per il tratto elegante e per le vesti sfarzose, portava cappello piumato, codino e pizzi lunghissimi. La sua ferocia in battaglia stava entrando in lutto. «Amigos, ecco il sesto e ultimo componente della spedizione», annunciò Lorenzo Giulio. «Chi sia Hubert Macari lo sapete un po' tutti, non ho mai avuto ai miei ordini un uomo più fidato. Pignolo, questo sì, rompe spesso le scatole, è un poco tonto, senza però averne colpa, ma se gli si ordina di essere un demonio lo diventa. E quando gli dissi così per scherzo di sventrare una dama spagnola, lui lo fece e mi portò su un vassoio ben caldo le trippe del...» «Quale spedizione, capitano?» lo interruppe Macari molto serio. E franò così le risate del gruppo sul punto di prorompere. Lorenzo fu costretto ad atteggiare il viso in un'espressione ferma. «Si tratta di una missione che va tenuta segreta, Hubert. I vostri compagni la conoscono già. Partirete subito su un'imbarcazione leggera e una pinazza alla volta di Veracruz. Vi arriverete prima di noi e raccoglierete dati utili. Sulle fortificazioni? Non solo». Lorenzo abbassò la voce e aggrattò le sopracciglia. «Il cavaliere di Gramont è fissato su una sorella, tenuta prigioniera dall'Inquisizione in quanto ugonotta nella fortezza di San Juan de Ulua. Lui crede che sia viva, ma magari è morta da un pezzo. Si tratta di scoprire come sta e di capire come possa essere liberata». Pierre Bott scosse il capo. «È ben difficile che possiamo impadronirci del forte di San Juan. L'ho visto una volta, è smisurato e massiccio, in pratica inavvicinabile». «Ci guarderemo bene dall'attaccarlo direttamente, Pierre. La sorella di De Grammont, se è viva, dovremmo liberarla con un colpo di mano». «È difficile anche questo, capitano Laurent». «Ma non impossibile. Non vi ho scelti a caso per la ricognizione, guardatevi. Levert è un furetto che però uccide come un serpente velenoso. Big Willie è forza bruta. Le Skelette è capace di scassinare i lucchetti più complicati e, se necessario, di sgusciare tra le sbarre di un cancello. Macari E la logica, lo stato puro e l'assoluta fedeltà agli ordini. Vinci Guerra parla come un prete e incanta come un prete. Quanto a voi, Pierre, siete l'unico presentabile con maniere da damerino. Lorenzio, divertito dalle sue stesse definizioni, batté le mani. Oh, su via, miei valorosi, la pinata è già equipaggiata e vi attende nella baia. Non perdete tempo. Raccogliete le vostre cose e lavatevi. A parte Pierre, puzzate come capre, porco demonio. Poi imbarcatevi. Ci si rivede al largo di Veracruz. Mentre scendeva verso la capanna mischita che lo aveva ospitato in quei giorni a recuperare il suo sacco, magari nutriva alcune perplessità. Forse gli uomini del gruppo erano complementari, ma si conoscevano appena. L'unico suo amico era Levea. E la missione appariva difficilissima, dati pochi giorni a disposizione. Tuttavia, il suo capitano l'aveva ordinata e lui, che non era tipo da obiettare a un comando, si chiese anche se l'ingiunzione di lavarsi fosse una prescrizione o una semplice battuta scherzosa. Di norma, gli avventurieri non si lavavano mai, anche quando erano ricchi, non adottavano i costumi molli della nobiltà, ma decise comunque di farlo per prevenire rimproveri. Non si poteva mai sapere. E loro erano Society Burning, brano Human Waste. Si torna alla controinformazione, si torna alla controinformazione con un testo scritto dai compagni arrestati ai primi di febbraio per la doppia rapina Vendos in Cozzani. Abbiamo letto già venerdì il testo di Nico Romanos, che ricordo rispetto agli altri è un carcere diverso. Questo testo invece è scritto e firmato da tutti. Allora, leggiamo il testo. Lo spezzeremo in due parti perché è lungo, metteremo un brano breve e poi si riprende. Allora, pensiamo sia necessario divulgare alcune informazioni riguardo alla nostra sorveglianza e al conseguente arresto fatto dagli agenti dell'antiterrorismo il 30 aprile 2013 a Nea Filadelfia. La maggioranza delle notizie sono ufficiali e prese dalle accuse a nostro carico. Tramite ciò siamo giunti ad alcune conclusioni in merito alla conoscenza degli agenti dei nostri movimenti e sui metodi di sorveglianza diretta. Aggiungiamo anche alcune parole sulle conoscenze degli agenti che abbiamo scoperto, ma anche sulle loro tattiche. Il ritardo è dovuto all'esitazione e alla valutazione su pubblicare queste informazioni con rischio di aiutare il futuro lavoro della polizia. L'abbiamo valutato e abbiamo deciso che è il più importante, anche se noi con ritardo di qualche mese, condividere queste informazioni, perché è più coscienziosamente corretto per noi che i compagni interessati sappiano un minimo come si muove la polizia, piuttosto che restarne ignoranti. Per molti queste cose suoneranno ovvie, ma siamo convinti che non sarà così per tutti. Ovviamente non possiamo fare controproposte qui, solo avvertimenti. In nessun modo vogliamo spaventare qualcuno con l'ampiezza di informazioni e la dinamica del nemico, ma dire a chi sta cercando ciò di cui bisogna essere a conoscenza è stata per soddisfare i propri desideri d'attacco. L'ombra che molte volte copre i metodi e i movimenti dell'antiterrorismo porta la gente a sopravvalutarlo, quando è vero che oltre certe cose che vengono divulgate, molte altre restano nell'oscurità. Gli agenti stessi quasi mai rivelano i loro metodi. Dall'altro lato, sebbene abbiamo preso delle contromisure, un rischio a livello individuale o collettivo rimarrà sempre in un campo soggettivo. Non importa quanti errori si fanno e continueranno ad essere fatti nella battaglia contro i forti meccanismi di oppressione. Gli errori che sempre costeranno di più vanno comparati agli errori degli agenti che sono assorbiti. Le situazioni devono essere valutate di nuovo e gli errori già successi semplicemente non dovrebbero ripetersi. L'esperienza accumulata in tanti anni va studiata e capita, e visto che c'è la tendenza a prepararsi per la battaglia già avvenute e non per quelle che verranno, bisogna essere preparati e molto fortunati. Per iniziare, diciamo che la nostra sorveglianza è iniziata alle 11.20 con la localizzazione di Grigoris Sarafundis e finita alle ore 16 con il nostro arresto a Nea Filadelfia. Abbiamo motivo di credere che la nostra sorveglianza è iniziata in un momento specifico, poco prima che il nostro compagno entrasse nell'internet caffè Palladium al 48 di Solomon Street, a confine del quartiere di Exarchia con il centro di Atene. Crediamo che tale bar fosse sotto sorveglianza, dato che abbiamo saputo che altri compagni in passato sono stati pedinati da agenti borghesi all'uscita del posto. Un altro motivo che più o meno definisce l'inizio è il fatto che nella prima mattinata il compagno ha fatto un controllo per assicurarsi di non essere seguito, un controllo usuale che facevamo molto spesso e sempre prima di incontrare compagni ricercati o sconosciuti alla polizia, alla fine di essere puliti. In altre parole, pensiamo che il brutto momento sia arrivato quando una persona pulita è entrata in un posto sporco e, dato che era conosciuta dall'antiterrorismo a causa di passate sorveglianza, è stata riconosciuta e sottoposta a sorveglianza discreta. L'incontro di qualche ora dopo con i due compagni ricercati, Agiris Dalios e Philos Arsiris, è suonato come un allarme all'antiterrorismo e ha causato un immediato ordine d'arresto. Gli agenti, come sempre, a fine di giustificare la sorveglianza, hanno detto nell'accusa che una chiamata anonima a loro fatta aveva rivelato che Grigoris e un altro compagno avevano preso parte alla rapina a Velvedo e spesso transitavano nel quartiere di Exarchia. Così hanno anche cercato di svegliare sulla cooperazione dell'Internet Café al fine di non renderlo un obiettivo. Infatti hanno scritto di aver trovato Grigoris per caso all'incrocio tra Patison e Salomò, 30 metri più in giù della strada. Sebbene sappiamo che questa storia ridicola della chiamata anonima non è vera, non escludiamo che Grigoris per qualche motivo poteva essere già stato tra i sospettati e poi diventato obiettivo dell'antiterrorismo. La storia più o meno dopo la visita di Grigoris all'Internet Café sporco continua quando poco dopo un'altra parte della città incontra il compagno Yannis Naxakis, che aveva già fatto un controllo. I due compagni hanno poi frequentato zone diverse per rivedersi dopo a Nea Filadelfia, appunto l'incontro con altri compagni. La storia finisce poco dopo, con l'arrivo dell'antiterrorismo. Durante quelle poche ore, i compagni sotto sorveglianza hanno fatto alcune mosse che da un punto di vista legale potrebbero essere indifferenti, ma comunque sono riusciti a nascondere alcune caratteristiche cospirative di come ci muoviamo. E poi continua e inizia a fare dei dunque, però noi spezziamo questo testo lungo con un brano dei Los Muertos de Cristos alla Barricadas e poi si torna qua con il continuo dello scritto dei compagni di Nea Filadelfia. Allora, torniamo con con lo scritto dei compagni di Atene. Allora, eravamo arrivati ai dunque, quindi ai punti. Punto 1. Dopo circa 4 ore di sorveglianza ci hanno visti andare in 4 diversi internet café. Il primo è stato il Palladium, dove è andato Grigoris. Poi Fatision 382, vicino alla stazione ferroviaria di Anopadissia, vicino al negozio Everest, dove Grigoris e Yannis si sono incontrati. I due poi sono andati al Gnet e a Marusi, mentre l'ultimo era stato il Bite and Bites a Nea Filadelfia, Dekelias 138, dove hanno incontrato Agilis e Tivos. Con questi fatti gli agenti hanno creduto che usavano internet per comunicare tra di noi. Hanno saputo che scaricavamo e usavamo Tor, un testo esaustivo verrà diffuso riguardo al funzionamento e alla sicurezza di Tor, un programma per far perdere le tracce dell'indirizzo IP in modo da navigare più sicuro, visto che l'indirizzo IP che svela la provenienza geografica dell'utente appare come se fosse localizzato in un'altra parte del mondo. Anche con ciò gli hacker della polizia greca non hanno l'abilità di decriptare la nostra navigazione su Tor, perché non è una questione di decifrare ma di vagliare un grande insieme di indirizzi IP, e trovarlo è veramente dispendioso a livello di tempo ed una procedura complessa che nel nostro caso va fatto a ritroso. Generalmente con Tor ci siamo sentiti sicuri fino a quando recentemente, il 6 agosto, gli hacker dell'FBI hanno craccato per la prima volta molte pagine Tor, riuscendo a rintracciare e ad arrestare una vasta rete di pedofili, fatto che ha creato timori riguardo alla sicurezza. Un errore che abbiamo sicuramente fatto è aver scaricato Tor sul PC dell'Internet Café dove eravamo, piuttosto che averlo in una chiavetta USB, cosa che può essere vista dal PC centrale del negozio, che teoricamente può avvisare subito i poliziotti tramite un programma, se c'è un accordo apposito. Riguardo agli internet cafè ci sono arrivate brutte notizie, dato che della gente è stata pedinata da agenti borghese dopo aver lasciato diversi internet cafè ad Atene, Xarchia, Monastiraki, Neos Cosmos e Calitea. Cosa che ci fa pensare che molti negozi ad Atene sono sotto sorveglianza. Non dimentichiamo che le abilità degli agenti sono sufficienti se consideriamo che solo il DAEB antiterrorismo ha 600 impiegati, come è stato detto da loro stessi durante il processo. Poi punto 2. Ci hanno visto al parco Sigrow a Capistia. Dopo due di noi, Grigoris e Giannis, prima di andare verso Nea Filadelfia, hanno fatto sosta al parco, andando verso il campo da calcio, per poi sedersi su una panchina vicino al campo e parlare a lungo. Da notare che in tutte queste ore siamo stati seguiti, sebbene effettuavano controlli e teoricamente credevano di essere puliti, guardandoci alle spalle per abitudine non abbiamo notato nulla di preoccupante, mentre ci muovevamo con diversi mezzi, treno, bus, taxi. Altre cose che abbiamo imparato e capito dal giorno dell'arresto in merito all'agire della polizia: ci hanno veramente sorpreso quando a 80 metri dalla strada del bar a Nea Filadelfia, mentre due di noi, Grigoris e Giannis, camminavano, gli agenti della Diaz ci hanno fatto segno per un controllo. Se qualcosa era da aspettarsela, di certo non era la presenza della Diaz in un incrocio centrale del quartiere, ma un altro tipo di assalto. Dopo il segnale e dopo essersi avvicinati a piedi, abbiamo visto qualche secondo dopo l'arrivo di molti altri agenti che ci circondavano fino a metterci in trappola. Qualcosa che ci ha fatto capire che se anche fossimo stati armati avremmo avuto veramente poche possibilità di fuggire. Dall'altro lato, come si sa già, nel bar dove è avvenuta l'operazione, qualche minuto dopo, la loro tattica di usare la Diaz come esca non ha dato risultati, visto che una persona è fuggita. Inoltre, qualcosa di cui non eravamo certi, che ora sappiamo, è l'abilità degli agenti di qualsiasi caserma nel paese di confrontare subito i dati di una carta d'identità falsa con quelli del vero possessore tramite la fotografia. Giannis, che inizialmente è stato portato alla caserma di Nea Filadelfia, è riuscito a vedere gli agenti digitare i dati del documento falso nel computer e vedere la foto del vero possessore apparire nello schermo. È importante sottolineare le differenze di base delle tattiche dell'antiterrorismo nel caso dei nostri arresti, a confronto di passare operazioni a danno dei gruppi armati CCF, LR, gli arresti a Pireo, Nea Smirni, Vironas, Tavros. In tutti questi casi passati, la tattica è stata analizzare prima il profilo e le interazioni dei compagni cercati con quelli illegali, poi mettere questi sotto sorveglianza per scovare gli illegali. Ovviamente l'antiterrorismo non svolge indagini in un solo senso, ne restano fermi ad uno schema tramite l'esperienza degli ultimi 3 anni. Abbiamo visto che, nonostante le differenze occasionali, il nucleo dell'indagine e del suo successo stanno in un modello semplice. Nei precedenti casi, quando la DAEB ha scoperto i compagni ricercati, non ha cercato di arrestarli subito, al contrario li ha sorvegliati molti giorni, mirando alla ricerca dei covi e delle armi dei compagni e, in secondo luogo, i loro contatti. Gli esempi sono evidenti: nel caso dei compagni arrestati a N. Smini a Pireo, la sorveglianza, secondo i documenti ufficiali, è durata circa 7 giorni. Secondo le fonti, l'antiterrorismo ha osservato le abitazioni di compagni a Salonicco e a Vironas, Tavros, così come quella a Volos, dove vivevano i membri delle ORCCF. A contrario, nel nostro caso, l'antiterrorismo ha scelto di arrestarci subito e non di seguirci, per due motivi. Il primo e più importante è che nel passato diversi compagni, tra i quali alcuni di noi, sono sfuggiti alle operazioni dell'antiterrorismo grazie ai metodi di controllo e sorveglianza applicati. Gli agenti o li hanno persi o, al fine di non far scoprire l'intera operazione, li hanno lasciati andare. Il secondo motivo è che, a causa di moderni strumenti di oppressione, vedi DNA, gli agenti sono più sicuri che in passato e noi saremo imprigionati e condannati anche senza covi, armi, eccetera, eccetera. Alla fine, la conclusione che traiamo è che il nemico si conforma velocemente alla condizione ed evolve si evolve di continuo, ma molte volte il nemico stesso crea le condizioni nelle quali ha l'iniziativa delle azioni. dal nostro lato non è sufficiente restare nei modi testati e vincenti del passato, bisogna guardare sempre avanti, essere, come dicono loro, un passo avanti. Aspettandoci il peggio non possiamo che migliorare sempre. Attraverso questo testo cerchiamo l'evoluzione dell'azione tramite la condivisione di questa esperienza. Crediamo che tali comunicazioni siano necessarie, anche se in questo modo il contatto immediato tra interessati è impossibile e pericoloso, e generalmente è essenziale che gli accusati e i prigionieri diffondano tali notizie. Le cose che il nemico sa non dovrebbero essere un segreto dei nostri giri, visto che possono tornare utili. Cioè, ovviamente è il caso di alcune informazioni restano segrete per via di una strategia, un piano o un nuovo attacco a sorpresa ai danni del nemico. I prigionieri, per caso di Nea Filadelfia, Agiris Dalios, Silva Starsis, Yannis Naxadis e Grigoris Sarafundis. E questo era il testo dei compagni che... A noi non ci dicono niente di nuovo in Italia, perché tutte queste cose che loro hanno scoperto dopo, a noi in Italia sono arrivate molto tempo prima, gli internet caffè, un po' la mano a fare i rintracciamenti, però comunque ci hanno visto poco. Pensiamo sempre che qualunque tipo di comunicazione informatica passa dei cavi che sono stati posti dai padroni del metallo, e quei cavi non assicurano libertà. L'internet è un mezzo che noi usiamo, ma faccia a faccia si discute sempre meglio. Vabbè. E questa era la testa dei quattro compagni di Nea Filadelfia. Ora ci ascoltiamo All Gone Dead col brano Screech and Skrill, e poi dopo si torna qui con la lettura dei pirati di Valerio Evangelisti e Vera Cruz. e neanche a farlo apposta. Tra i nemici. Una pinazza era un'imbarcazione con un solo albero e un'unica grande vela quadrata. Certe volte non aveva nemmeno quella ed era spinta a remi. Insomma, una sorta di scialuppa molto larga e molto lunga, capace di imbarcare una quindicina di marinai, ma non di reggere il peso dei cannoni, a parte in qualche caso una piccola colubrina fissata a prua. Era uno dei navigli prediletti dai fratelli della costa quando si trattava di abbordare un galeone di sorpresa, specie di notte. Da lontano somigliava ad una barca da pesca, sebbene fosse più veloce. Tanti capitani avevano iniziato la loro avventura su legni di quel tipo, leggeri, poco costosi e mobilissimi. Macari a prua fu il primo ad avvistare terra. Ci siamo, non ho dubbi, è Veracruz. Non la vedo ancora, ma scorgo le ansie del porto, è proprio lei. Chi aveva il comando era, per anzianità, lo svizzero Pierre Bott. Lasciò la bara del timone a biguigli e si accostò all'impavesata. Tolse dalla tasca della lunga polacca che indossava un piccolo cannocchiale che snodò. Quindi osservò nell'oculare per qualche secondo. Sì, San Juan de Ulua è inconfondibile. Ammainiamo la vela e accostiamo a remi. No, un momento, aspettate, una goletta sta uscendo dalla baia, punta dritto su di noi. In effetti, un due alberi di medie dimensioni dalle vele quadrate e dall'ampia randa trapezoidale era uscito dal porto di Veracruz e navigava verso la pinazza. Era un'imbarcazione ampia, lunga e maneggevole, simile a quelle che gli spagnoli chiamavano balandras, ma con un albero in più. Aiutata dal vento a favore, sollevava con la prora due getti di schiuma e presto fu facile notare gli otto cannoni, quattro per lato, che l'armavano senza appesantirla. Un cannoncino mobile era collocato a fianco del Bonpresso, ma non pareva avere serventi. «Che si fa, capitano?» chiese Levert. «Viriamo di bordo?» «No, forse non è necessario.» Pierre Bott lanciò un'occhiata al cielo, in cui il sole pallido era ogni tanto seppellito da nubi grandi e nerastre che si muovevano però velocemente. Cadeva una pioggia sottile. Male che vada, approfitteremo di un momento di buio per prendere il largo. Intanto armatevi tutti, ma senza che le armi si notino troppo. Sentiamo cosa vogliono da noi questi signori. Le scheletti. Disfece un fagotto poggiato su un rotolo di sartiame e distribuì ai compagni pistole a pietrafocaia, corni di polvere da sparo e sacchetti di pane di piombo. Ogni pirata aveva già al fianco lo sciabolotto o la daga e, nel caso di Big Willy, un'ascia da abbordaggio. Le incerate che riparavano dalla pioggia nascondevano il piccolo arsenale. Seguì un'attesa piena di apprensione, almeno per Macari. Finalmente la goletta si portò vicina. Il nome era dipinto sui masconi. El Santo Espíritu inalberava la bandiera tipica dei galeoni di Spagna, tre bande orizzontali, rossa, bianca e gialla, e un'aquila al centro, circondata da una ghirlanda e sormontata da una corona. La voce del capitano suonò cordiale. Fatevi riconoscere, chi siete? Pierre Bott rispose in uno spagnolo impeccabile. Sudditi del vostro stesso sovrano, mio signore. Io sono il proprietario di questo legno e ho bottega di mercante a Campeche. Mi chiamo Alberto Martinez e vado a Veracruz a cercare degli empori, merci da acquistare e rivendere. A largo non è che avete visto mica due galeoni, dovrebbero chiamarsi Nuestra Señora de Consolación e Nuestra Señora de Regla. Magari tirò un sospiro di sollievo. L'attitudine del capitano era amichevole e l'equipaggio della goletta si dedicava con tranquillità alle mansioni consueta. «No, signore», rispose Pierre Bott, «abbiamo navigato sotto costa senza incrociare altro che barche». Il capitano del Santo Espíritu sollevò il cappello in gesto di saluto. «E allora proseguite pure, signor Martinez. Aspettiamo due navi provenienti da Caracas e solo dopo il loro arrivo i magazzini di Veracruz saranno pieni. Sempre che vi interessino i pitali». «Pitali?» Non mi fu risposta, la goletta si era mai allontanata. Pierbo si rivolse ai suoi uomini sorridente. Nessun pericolo. Gli spagnoli non sono in allarme. Della nostra spedizione non è trapelato nulla. Trepidano invece per i loro vasi da notte. E chissà che cosa se ne faranno, borbottò le Skelet. Non lo immagini, rise Pierbo. Su via, deponete le armi e mettetevi al lavoro. Tra poco si sbarca. Il porto di Veracruz era stretto tra la grande fortezza che proteggeva la città, costruita su una penisola sottile, e la costa. Su quest'ultima, a forma di mezzaluna, sorgeva un bastione a ognuna delle due estremità. L'ampio specchio d'acqua ospitava imbarcazioni di piccole o grandi dimensioni, utili alla pesca, e una sola urca, una grande nave tozza e molto larga, con tre alberi bassi, idonea per il trasporto su piccoli tragitti di bestiami e di carichi voluminosi. Al di là, oltre il velo di pioggia e una coltre nebbiolina, si scorgevano i campanili di Veracruz, una città estesa e quasi tutta in pietra, pianeggiante a un primo sguardo monotona. L'abitato aveva mura, però basse e logorate dalla salsedine, ma di sicuro un sistema di fortini la proteggeva verso l'interno. Intanto si stava levando un vento forte. Quella parte della costa atlantica della Nuova Spagna era notoriamente sempre flagellata dalle intemperie, con brevi pause di sole nei mesi più caldi. Gli occupanti della Pinaza Corsara misero piede sul molo umido e scivoloso mezz'ora dopo, discusso il pedaggio con le autorità portuali e ottenuto un attracco sicuro, si inoltrarono in città. Pierbot si fermò all'imbocco di un viottolo che conduceva dritto ai palazzi del governo e la cattedrale in costruzione e guardò i compagni. «È meglio che ora ci dividiamo, tu, le Squelette, assieme a Willy e a Petru girerete fra le case per segnalarvi mentalmente i punti strategici e le eventuali fortificazioni. Io, Francis Levert e Hubert, cercheremo di raccogliere informazioni su San Juan e sulla sorella del capitano di Grammont, se davvero è là.» «Dove ci ritroveremo?» chiese le Squelette. Pierbot guardò il cielo in cui le nubi si accavallavano. Ma deve essere circa mezzogiorno, anche se il sole non si vede. Possiamo vederci quindi allora stasera? Scorse una frasca fradicia d'acqua sopra un'insegna scolorita. Laggiù, al viejo marinero, è anche una locanda. Ci dormiremo più tardi, compañeros. I due gruppi si divisero. Quello di Bot rimase sul molo e lo percorse. Magari più che il mare, guardava le case. Dopo ad aver partecipato ad incursioni leggendarie, non ricordava di aver mai visto una città spagnola interamente in muratura. A Veracruz, le capanne di legno con il tetto di foglie di palma intrecciate sembravano rare. Prevalevano invece costruzioni in mattoni che, anche quando erano misere, avevano il loro porticato e le cancellate in ferro battuto a protezione di ingressi e finestre. Nuvole di bambini sguazzavano nelle pozzanghere indifferenti alla pioggia. Erano i figli dei servitori, tutti indigeni o degli scavi negri. I loro padroni Crollò non sarebbero mai scesi in strada a sfidare il maltempo. Pierbo allora interpellò un barcaiolo anziano, un indio rannicchiato nella sua incerata. «Amico, ci porteresti a San Juan? Pago bene.» «Con questo tempo», sospirò l'uomo. «D'accordo, salite.» Quando i tre furono montati sulla piccola lancia, Macari domandò a Bot in francese: «Che piano avete? Non basta raggiungere la fortezza per esservi ammessi, temo.» Pierbo aveva il viso largo e i favoriti lunghissimi di un buon borghese, padre di famiglia e onesto commerciante. Se non fosse stato per il lampo d'astuzia che ogni tanto faceva capolino nei suoi occhi grigi e dalle sopracciglia spesse, anche ora quel guizzo apparve nelle sue pupille. «Al momento non ho nessuna idea, Hubert, ma spero di farmene venire una prima che raggiungiamo il forte.» Benché perplesso, Macari fece un cenno d'assenso. «Siete voi il capo, saprete ciò che fate», borbottò. Via via che l'indio a forza di remi spingeva la barca attraverso il tratto di mare che li separava dall'estremità della penisola, San Juan de Ulua, conosciuta anche come San Juan de Luz, mostrava tutta la sua imponenza. La cittadella, di forma quadrangolare, non aveva mura più alte della norma e tuttavia si era intimiditi dalla sua smisurata estensione, dallo spessore dei merli, dalle due torri di guardia. La superficie esterna pareva rosicchiata da una specie di lebbra che si sarebbe attribuita alla salsedine. L'apparenza era invece dovuta ai blocchi di corallo pietrificato usati per costruire il fortilizio, quasi un secolo prima, sotto la direzione di Giovan Battista Antonelli e di altri architetti e durante il governatorato di vari viceré della Nuova Spagna. L'esito era stato il sorgere di un baluardo che solo un pazzo avrebbe osato assalire. La barca approdò in una piccola cala quadrangolare che fiancheggiava il lato sud della fortezza. Gli avventurieri pagarono il barcaiolo, che li ringraziò mille volte per la loro generosità, e misero piede su una spianata difesa da due capannoni armati di cannoni. Un attimo dopo erano circondati da una trentina di soldati spagnoli armati di picche, di spade e di archibugi. L'ufficiale che li comandava domandò secco: «Chi siete? Come osate sbarcare qua? Chi vi ha autorizzati?» A Macari dolorò il petto, tanto il suo cuore era in tumulto, ma Pierpot non si scompose, fece un inchino elaborato e disse: «Olo signore, se siamo mercanti. Ci siamo imbattuti in mare in due galeoni provenienti da Caracas, il Nuestra Señora de Regla e il Nuestra Señora de Consolación. I capitani ci hanno pregato di preannunciare il loro arrivo al signor governatore di Veracruz, Don Luis Bartolomé de Córdoba y Zúñiga, nonché al castellano di questa roccaforte, Don Fernando de Solis y Mendoza». L'espressione ostile dell'ufficiale sparì all'istante. «Ah, finalmente, buone notizie!» esclamò. «Temevamo molto per la sorte di quelle navi. Questo mare, sapete, è infestato dai pirati. Don Luis è in città, ma Don Fernando nei suoi appartamenti. Aspettatemi qui, come vi chiamate?» «Alberto Martinez, mercante in Campeche». «Ah, torno subito, rapido!» Macari, ammirato dalla prontezza di riflessi e dalla disinvoltura di Pierpot, trasse un sospiro di sollievo. Intanto aveva smesso di piovere, ma il vento rimaneva fortissimo e spostava banchi di nubi nere. Il sole restava invisibile, celato dalla nebbia. Già spettrale di suo, la fortezza manteneva la propria tetraggine, che occasionali schiariti non riuscivano a dissipare. L'ufficiale fu di ritorno poco dopo ed era quasi sorridente. «Don Fernando è a pranzo con Doña Gabriela Gino Vergara, signor Martinez, ma consente a ricevermi, seguitemi, e anche i miei amici?» Il militare posò lo sguardo su Macari e su Levert, alzò le spalle. «Ah, non me l'ha detto, ma suppongo di sì». We'll be right back. piedade da minha quebrada. Sou filho de lá, então não enche, senão você vai ficar sem os seus dentes. Con l'ascolto da Yathao Libertaria, un brano figlio di periferia, torniamo nei Caraibi dentro la fortezza di Corallo. Per accedere a San Juan de Ulua si doveva percorrere un passaggio tortuoso di corallo pietrificato, tutto angoli retti, irto, fra il mare e una laguna artificiale. L'ingresso della fortezza era presidiato da un folto corpo di guardia che, alla vista del graduato, non sollevò obiezioni. I tre filibustieri ebbero accesso ad un cortile molto grande che la pioggia aveva costellato di pozzanghere. Alla loro sinistra sorgeva una facciata di tipo civile in mattoni rossi. Di fronte, una serie di arcate svelava magazzini zeppi di merci. A destra era stato ricavato un piccolo giardino ombreggiato da palme, forse frequentato dalle guardie quando, tra novembre e maggio, il vento calava e il calore si faceva rovente. «Capitano», chiese Kierbot, senza conoscere il grado effettivo dell'ufficiale, «mi avevano detto che questa roccaforte, usata anche come prigione dell'Inquisizione, a me sembra piuttosto invece una caserma». L'ufficiale, un uomo allampanato alla barba appuntita, indicò una torre bianca che si scorgeva oltre le mura. «Ah, la prigione è là, in un acquartieramento. Il Rebellin de San José, protetto da un ponte levatoio. Vi hanno accesso unicamente i frati domenicani e i secondini. Io vi sono stato una sola volta e mi è bastato il puzzo di urina, di feci, di sporcizia, spezza il fiato. E vi sono detenuti illustri? Ah, nessuno, a quel che ne so. Pirati? Ah, solo la sorella di un pirata, il famoso De Grammont, sei ancora viva. Sta nella cella più angusta, proprio sotto la torre. Lì non si campa a lungo. È come se è sopravvissuta per oltre 5 anni. E per tutti un mistero». Pierbot smise con le domande perché stavano entrando nell'ala dei mattoni rossi, l'unica a uso civile. Un grande portone, ornato da fregi di marmo, era sorvegliato da 2 soldati annoiati e distratti che, al passaggio del superiore, si riscossero e sollevarono l'alabarda. Un attimo dopo erano tornati alla loro apatia. Nell'atrio, una larga scalinata, illuminata da molti candelabri, conduceva al piano di sopra. Le pareti erano adorne di arazzi e di festoni d'armi. Saliti la rampa e incrociati vari domestici in livrea, i visitatori si trovarono negli appartamenti occupati dal castellano e, occasionalmente, dal viceré della Nuova Spagna, Don Tomás Antonio de la Cerda y Aragón, conte di Paredes e marchese di Laguna. Si sapeva però che qui si detestava il clima umido e piovoso di Veracruz, sua ipotetica residenza, e quando poteva si trasferiva in città coloniali più accoglienti. Al piano superiore dominava lo sfarzo esagerato tanto caro alla nobiltà spagnola. I corridoi, che prendevano luce da finestre a tutto sesto, erano un'esposizione di ninnoli tavolini in marmo rosa, poltrone foderate di velluto, dipinti e tappezzerie, e valicati numerosi tendaggi, schiusi da una servitù discreta e silenziosa, il gruppo raggiunse finalmente una sala da pranzo che un grande di Spagna avrebbe invidiato. «Sono questi i mercanti che hanno notizie dei galeoni? L'uomo che si alzò da tavola per accogliere gli ospiti aveva voce piacevole e modi garbati. Dimostrava una cinquantina d'anni, ma forse era la parrucca incipriata di proporzioni spropositate che lo invecchiava un poco. «Oh, venite, venite, amici miei, ditemi subito quali sono le novità!» Pierbo si sprofondò in un inchino che i suoi compagni imitarono. Non era rivolto solo al castellano Fernando de Solis, ma anche alla dama che a tavola gli sedeva al lato. Hubert Macarine fu molto colpito. In vita sua non aveva mai visto donna più bella e più elegante. Don Fernando fece un cenno all'ufficiale. «Tu puoi ritirarti», e disse alla dama: «Donna Gabriella, voi mi perdonerete», e pulite le labbra in un tovagliolo si fece incontro ai 16 mercanti. «Mi hanno detto che vi chiamate Martinez», disse a Pierbot. «Siate il benvenuto. Posso offrire a voi e ai vostri amici una coppa di vino?» «Oh, vi ringrazio, signor Castellano», rispose il filibustiere, «ma io e i miei compagni abbiamo vari appuntamenti di affari in città e ci conviene restare perfettamente lucidi. Ho creduto però mio dovere, chiaramente, riferirvi del nostro incontro con il Nuestra Signora de Regla e il Nuestra Signora de Consolación, avvenuto dopo la zona di mare detta El Alacrán». Don Fernando corrugò le sopracciglia. «Ah, il ritardo di quella spedizione mi stava preoccupando. Qui giungono galeoni 9 volte all'anno dalla Spagna e dalle colonie, e tutta l'economia di Veracruz dipende dai loro carichi. Cominciavo a temere che i 2 da Caracas fossero perduti». «Oh, rassicuratevi, signore», rispose Pierbotte, «li vedrete approvare entro pochi giorni. Sono stati rallentati da una tempesta che, per i danni subiti, li ha costretti a carenare presso Mérida. Ora le navi sono in ordine, ma il carico è intatto». Don Fernando allora mostrò allegria. «Oh, ma che bella notizia!» esclamò con palese sollievo. «Trasportano, diciamo, beni molto richiesti dai nostri concittadini più illustri, che non fanno che lamentarsi di un sistema fognario ancora imperfetto. Però, signor Martinez, non potete rifiutare una coppa di vino per festeggiare l'evento. Una sola non potrà ottenebrarvi e nuocere ai vostri commerci». E mentre si svolgeva quel dialogo, Macari, come anche Levert, non riusciva a distogliere lo sguardo dalla dama. Era troppo bella ed elegante per non attirare tutte le attenzioni. Aveva occhi scuri, acuti e maliziosi, e sopracciglia finemente disegnate. La capigliatura castana, tendente al biondo, le sormontava il capo in spire, scoprendole il viso. L'abito, accollato d'uso nelle colonne delle Indie occidentali, non riusciva a nascondere le sue forme prepotenti. Il mezzo sorriso che manteneva sottolineava il potere di seduzione che sapeva di avere. Don Fernando, mentre versava personalmente il vino in bicchieri di cristallo portati dai camerieri, si rivolse a lei. «Oh, avete udito, donna Gabriella? Stanno per arrivare merci alla vostra città, Caracas. Senz'altro porteranno anche sete, capaci di rendervi più fulgida, casomai ce ne fosse bisogno». La galanteria era goffa e la dama l'accolse con un sorriso di circostanza non privo di ironia. Ciò non impedì che magari provasse per un attimo un incongruo sentimento di gelosia nei confronti del castellano. Le donne che lui frequentava alla Tortuga, o che aveva frequentato a Brest, la città in cui era nato, erano prostitute o schiave o indigene, e trovava ingiusto che un damerino imbellettato come Don Fernando potesse dividere la tavola con una creatura così affascinante. Pierbo sorseggiò il suo vino e disse, col fare leggero tipico delle persone di riguardo: «Mi avevano descritto San Juan de Ulua come un carcere tenebroso in cui si sperimentano supplizi raffinato, ma da ciò che ho visto è tutto il contrario». Il castellano allargò le braccia, attento però a non versare il contenuto del bicchiere. «Oh, potrei garantirlo, non ho autorità sulla prigione che sta sotto la Torre Bianca. Fornisco pochi soldati di guardia, la giurisdizione oltre il ponte levatoio spetta agli ordini religiosi, domenicani, gesuiti, francescani, gli agostiniani, e loro agiscono come meglio credono». «Ah, ma il vostro ufficiale mi ha detto che sarebbe prigioniera anche la sorella di un filibustiere famoso». Per la prima volta la serenità di Don Fernando de Solis si alterò, dal sorriso passò alla smorfia. Oh, può darsi. Io spero che sia morta. Venga il fratello de Grammont a liberarla, se ne è capace. Dopo averlo colato a picco a son di cannone, gli consegnerei una salma. Secondo me potete dormire sonni tranquilli. La torre e la prigione non sottostate sono inavvicinabili dal mare. Tutta la fortezza lo è, e la città è irta di baluardi. Abbiamo creato il primo centro nelle colonne di Carlo II, immune agli attacchi dei pirati. Donna Gabriella, che si disinteressava alla conversazione, spiluzzicava un'ala di pollo. Alzò il viso adorabile del piatto. Anche Panama credeva di esserlo, anche Maracaibo, prima di essere presa da Lolonnais e poi da Michel de Grammont. Il castellano le sorrise. Oh mia signora, se c'è qualcosa di inaccessibile siete voi. Lasciate che mi congedi da questi gentiluomini e poi riprenderò il mio assedio. La frase era ardita, ma Gabriella Junot Vergara appariva molto sicura di sé. Don Fernando, replicò vagamente beffarda, siete in numero insufficiente per farmi capitolare, anche calcolando vostra moglie e le vostre figlie. La conversazione si faceva imbarazzante di fronte a estranei e solo il vino aveva potuto innescarla. Fernando de Solis arrossì e congedò in fretta i visitatori. Signori miei, vi auguro un buon commercio, grazie per le belle notizie, un cameriere vi condurrà all'uscita e una barca sicuramente vi porterà a Veracruz. Mezz'ora dopo, Pirbaud, Leverie e Macari si trovavano nuovamente ai bordi della città dalla parte del mare. Come tutti gli abitati coloniali appartenenti alla Spagna, gli isolati erano raggruppati in quadrati che si intersecavano con vie d'angolo retto fino a sfociare in Plaza Mayor, quadrata anch'essa, in cui i poteri distanti avevano la propria rappresentanza, il palazzo del governo, la cattedrale, la contaduria, che fungeva da sede principale del cabildo, ovvero sia l'assemblea dei cittadini più facoltosi, e il mercato. La folla era variegata e vociante, rappresentata soprattutto da indigeni e da schiavi negri orientali. Raramente passava qualche calesse con a bordo spagnoli e creoli. Un secolo prima le carrozze erano state vietate da Filippo II perché i coloni non eccedessero nel lusso smodato. Il divieto era stato scordato in un istante, benché mai revocato. Adesso, a distanza di tanto tempo, nessuno lo ricordava più. Pierbot sostò all'ingresso di Plaza Mayor, i pugni sui fianchi. Ma guarda che bordello! Mancano ore al ritrovo con i nostri, potremmo anche salpare subito, le informazioni le abbiamo. Ci toccherà trovare il modo di passare il tempo fino a sera. Leverta additò una schiava che camminava dimenando il sedere con una cesta di pane sul capo. Allora potremmo prendere una di quelle negre e portarla in una stradina laterale. Due la tengono ferma, il terzo se la goda, poi tocca agli altri. Pierbò scrollò il capo. Questione di mezz'ora al massimo, dobbiamo fare passare la giornata fino a sera. Qualcuno ha un'idea migliore? Prima che i compagni potessero esprimersi, un borghese corpulento si fece avanti, esagitato. Indicò Pierbot e gli altri. Le riconosco queste canaglie, sono pirati, pirati francesi. Mi trovavo su un galeone della nostra corona quando... Ma tu ti sbagli, amico mio, replicò Bot con freddezza. No, mi sbagli affatto. Il tono era cattivo, l'enfasi estrema. A Maracaibo mi avete mutilato, ho tre dita per mano, mi avete quasi bruciato vivo. Come potrei avervi dimenticato, capitano Pierre? Si era silenziosamente addensata attorno ai filibustieri una folla schiumante. Molti impugnavano la barra picche, altri bastoni. E con oggi finisce qui la diretta d'azione. Ricordo, il prossimo appuntamento è venerdì 15 Ricordo che domani a Tribunale di Genova ci sarà la sentenza per Alfredo e Nicola. Ricordo che due compagni avevano chiesto il rito abbreviato, hanno fatto tanto di dichiarazioni con rivendicazione, quindi domani, già forse domani in tarda serata, si avrà l'esito della sentenza. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@autistici.org per la mail, radiazione.noblogs.org è il blog di radiazione, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove già da domani potete riascoltare chi si è persa questa prima parte della lettura di Veracruz. Potete riascoltarla attraverso il podcast, o altrimenti il link per ascoltare Radiazione il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19 è radiazione.listentumaradio.com. Ora vi lascio un brano di Malavita, El Cerbero, e l'appuntamento è a venerdì 15. De madera tengo pata de pantera, ojos de águila, no tengas miedo. Soy el cerbero. Corazón verdadero, tres cabezas de madera, tengo pata de pantera, ojos de águila, no tengas miedo. Soy el cerbero. Soy el cerbero. Y monstruo vero que te enseña la vía. De madera tengo pata de pantera, ojo de águila, no tengas miedo. Soy el cerbero. Corazón verdadero, tres cabezas de madera tengo pata de pantera, ojo de águila, no tengas miedo. Soy el cerbero. Corazón verdadero, tres cabezas de madera tengo pata de pantera, ojo de águila, no tengas miedo. Soy el cerbero. Corazón verdadero, tres cabezas de madera tengo pata de pantera, ojo de águila, no tengas miedo. Soy el cerbero. I don't know what's going on. informazione, letture, provocazioni, musica.